Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Agguato a Ostia, gambizzate due persone, è mafia, intervenga Minniti, chiede la neo presidente del municipio. Indagato il sindaco di Mantova, l'accusa a favori sessuali in cambio di fondi per un'associazione. Sciopero ad Amazon di metà dei lavoratori secondo i sindacati, di un decimo secondo l'azienda. Il principe saudita si scaglia contro la guida suprema iraniana, è come Adolf Hitler. Black Friday, cancelli virtuali e reali aperti, prevista una spesa in Italia di oltre 1,5 miliardi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. La pagina Facebook di Radio 24 è quella di Effetto Giorno, dalle quali andiamo in diretta dall'altra parte del vetro. Roberta Frisani in regia, Laura Faggin in assistenza e in redazione. Iniziamo dunque, iniziamo da Ostia, perché potrebbe esserci un regolamento di conti, una vicenda di racket dietro l'agguato di ieri in una pizzeria dove sono state appunto gambizzate due persone. Quello che ipotizza la polizia, che non esclude nessuna pista, ascoltati in queste ore i conoscenti dei due feriti, un uomo che indossava un casco è entrato in un locale in via delle Canarie e ha sparato ferendo il padre della proprietaria, cinquantenne italiano, il pizzaiolo di 41 anni. Poco fa Giuliana Di Pillo, la neo presidente del municipio, ha commentato dicendo che si tratta di criminalità organizzata e deve intervenire il ministro Minniti. Di Pillo sarà ospite nostra in Effetto Giorno tra poco. Intanto sentiamo l'analisi di Daniele Biacchessi. Solo 5 giorni fa l'attenzione degli analisti politici era tutta rivolta all'esito del ballottaggio delle elezioni nel municipio di Ostia, vinto dal Movimento 5 Stelle con un ampio consenso ma a fronte di un'astensione record. La testata sferrata da un rampollo degli Spada al giornalista Pier Vincenzi aveva poi provocato una forte indignazione e una determinante emozione mediatica. Ma a Ostia la criminalità non se n'è andata via, anzi spara ancora. E con le modalità di sempre. Intorno alle 22 di ieri sera un uomo con il volto travisato da un casco è entrato nel disco Giro Pizza di Via delle Canarie 61 e ha esploso alcuni colpi di pistola contro il padre della proprietaria del locale e il pizzaiolo, entrambi rimasti gambizzati ma non in pericolo di vita. Il fatto è grave perché avviene a pochi giorni dalle elezioni, perché il ministro dell'interno Minniti aveva potenziato il servizio di controllo sull'intero territorio, perché le modalità utilizzate ricordano il classico agguato di tipo mafioso. L'ennesima sparatoria di Ostia non è dunque soltanto un avvertimento criminale contro le due persone rimaste ferite, ma anche un chiaro segnale allo Stato. Ci siamo ancora, qui comandiamo noi. Favori sessuali, indagato il sindaco di Mantova. L'accusa è quella di aver chiesto favori sessuali a una rappresentante di un'associazione culturale in cambio di contributi comunali. Il primo cittadino, Mattia Palazzi, eletto nelle file del PD, risponde attraverso la Gazzetta di Mantova. «Non ho mai chiesto favori a nessuno, abusando del mio ruolo di sindaco. Conosco quella signora, ma non vi è mai stato nulla di privato con lei». Alla fine, precisa il sindaco, il comune concesse solo il patrocinio a una iniziativa dell'associazione. L'iniziativa risale all'inverno scorso e Palazzi, confermando l'inchiesta a suo carico, ha sottolineato che il comune non intervenne economicamente. I carabinieri del nucleo investigativo di Mantova ieri hanno sequestrato nella sua abitazione cellulare, PC e tablet. Sequestro del telefonino anche per la donna coinvolta nella vicenda e per la presidente dell'associazione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo dello sciopero che sta avvenendo ad Amazon, che tanto ha fatto discutere in una giornata nella quale si apprende che c'è sciopero anche in Germania, in diverse sedi di Amazon, in 6 filiali del colosso, mobilitazione che dovrebbe durare fino all'ultimo turno di sabato in Germania, lo ricordiamo, Amazon ha circa 12.000 dipendenti. La manifestazione, lo sciopero nel giorno del Black Friday invece in Italia avvengono nel Piacentino, ci colleghiamo con Andrea Biondi del Sole 24 Ore che si trova là. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi Simone. Vai. Eccoci. Allora, in questo momento sta avvenendo il cambio turno, quindi ci sono molti lavoratori che arrivano. Ovviamente che entrano senza nessun problema, però coperti un po' dai fischi dei manifestanti che sono fuori. Con il passare del tempo un po' i lavoratori qui fuori dai cancelli, il numero di questi lavoratori si è assottigliato. Comunque è arrivato a un certo punto della mattinata, erano sicuramente un centinaio abbondante. Non un numero tale ovviamente da fermare l'attività, siamo anche all'interno e effettivamente l'attività era a pieno ritmo, anche perché ci sono i cosiddetti green badge, si vedevano appunto questi badge verdi indicativi dei lavoratori cosiddetti somministrati. L'attività quindi andava a pieno ritmo, poi come al solito fra sindacati e azienda c'è un po' il discorso, la battaglia delle cifre tipiche di ogni sciopero, ma al di là di questo quello che da parte sindacale viene messo in evidenza è il fatto che per la prima volta forse si è stati capaci di portare fuori dai cancelli di Amazon una problematica che c'è all'interno. È stato scelto un giorno simbolo, come ricordavi, che è quello del Black Friday, ma insomma, al di là di questo, poi alla fine altra cosa che colpisce è il fatto che forse noi non siamo più abituati con aziende che chiudono crisi, però questa è una battaglia rivendicativa, sostanzialmente una battaglia rivendicativa dal punto di vista economico e dal punto di vista delle condizioni di lavoro, almeno così dicono. Allora, tu hai sentito anche un sindacalista, Andrea, no? Di chi sì, si tratta? Infatti, si tratta di Fiorenzo Molinari, della CGIL. Lancio il contributo e vi restituisco la linea, Simone. Vai. Noi siamo molto soddisfatti, abbiamo un'adesione del primo turno attorno al 50%. Ho sentito che l'azienda ha detto il 10%, ma certamente perché tiene conto anche dei verdi, cioè quelli somministrati. Noi abbiamo spinto soprattutto a far sciopero alle persone che hanno un contratto a tempo indeterminato. E siamo alle cronache dalla manovra, dalla legge di bilancio, alla legge di stabilità. Teresa Trillò, buongiorno. Buongiorno. Allora, l'ultima novità riguarda l'emendamento del governo sulle pensioni relativo all'APE social e agli sconti contributivi per le donne lavoratrici con figlie, che sarà presentato il 30 novembre. E questa è una novità che ha annunciato il ministro del lavoro Giuliano Poletti, spiegando che bisognerà attendere la conferenza dei servizi, che è prevista a fine mese, per capire quali sono le risorse residue da impegnare per l'emendamento. Il governo intanto ieri ha presentato in Senato l'emendamento alla manovra sulle pensioni, con cui trasferire nella legge di bilancio le proposte esaminate nei giorni scorsi dai sindacati. Proposte che prevedono che dal 2019 si andrà in pensione a 67 anni, ossia 5 mesi in più rispetto all'attuale normativa, ma dall'innalzamento dell'età pensionabile saranno escluse 15 categorie di lavori gravosi e particolarmente usuranti, come ad esempio infermieri, ostetriche, insegnanti di asilo nido e scuole d'infanzia, macchinisti ferroviari o camionisti. Questa proposta è condivisa da CISL e UIL, ma non dalla CGIL, che il 2 dicembre scenderà in piazza. E da Roma per il momento è tutto. E grazie a Teresa Trillò per questo aggiornamento. Veniamo dunque alla politica, alla giornata politica. Un punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Dibattito politico che guarda da una parte, Simone, alla manovra economica e dall'altra alle alleanze in vista del voto di primavera. Gli interventi su welfare e pensioni restano di fatto sullo sfondo dei difficili rapporti tra Partito Democratico e le forze alla sua sinistra, a partire da MDP. Botta e risposta allora a distanza tra Renzi e D'Alema. Per il primo tutto resta aperto ed affidato alla difficile mediazione di Fassino di questi giorni, anche se, aggiunge Renzi, parliamo di fatti e non di alleanze. Secondo D'Alema il negoziato portato avanti dall'ex sindaco di Torino è surreale, l'intesa sarebbe dannosa, aggiunge, il cosiddetto voto utile schiaccerà il Partito Democratico. Renzi aprirà intanto questa sera a Firenze la tre giorni della Leopolda, tre giorni di lavori invece a Milano per Forza Italia. Si parlerà del futuro del paese per un centrodestra che si vede probabile guida della prossima legislatura. Io in campo per evitare che il paese cada in mano al Movimento 5 Stelle, dice oggi Berlusconi. Grillo commenta, siamo rimasti l'unico partito, gli altri sono in frantumi. Da Di Battista l'accusa in Sicilia, voto inquinato, altrimenti avremmo vinto. Alfano infine, Simone, esclude alleanze con il centrodestra, ancora nessun segnale da Grasso per il suo futuro. È tutto, linea allo studio. Grazie anche a Vincenzo Miglietta. A Milano gli stati generali della lotta alle mafie, sta seguendo i lavori Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì, Simone, buongiorno. Una carta di Milano con un elenco di proposte per aggiornare e migliorare gli strumenti di lotta contro le mafie. Sarà questo il frutto concreto a conclusione degli stati generali della lotta alle mafie, che ha visto convergere qui a Milano tutti i principali attori di questa sfida cruciale, anche per migliorare il rating del nostro paese, ripetono tutti. E oggi più che mai si impone la necessità di un aggiornamento di questi strumenti, anche se unanimemente considerati i migliori al mondo, perché 30 anni dopo il maxi processo a Cosa Nostra, la mafia, come ha ricordato il presidente del Senato Pietro Grasso, ha cambiato pelle. Sentiamolo. La mafia ha smesso di far parlare le armi e gli esplosivi, ma non ha assolutamente rinunciato a mantenere la sua rete di potere e di arricchimento illecito, sempre più come organizzazione in grado di operare a livello globale. In questa chiave un allarme particolare il capo dei servizi segreti Alessandro Panza lo pone sul cybercrime. C'è un attacco in corso dal 2009, rivela, prima di mettere in guardia dai pericoli del controllo dei dati mondiali da parte di due aziende private del web. Nel pomeriggio arriva anche il capo dello Stato, oltre al ministro dell'Interno e ai principali procuratori italiani. E per ora è tutto. Grazie anche a Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Il Papa oggi è intervenuto per parlare di migranti. Con spirito di misericordia abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale. Queste le parole del messaggio dedicato a migranti e rifugiati che il Papa ha scritto per la 51esima giornata mondiale della pace del 1 gennaio 2018, presentato in sala stampa vaticana. Praticando la virtù della prudenza, i governanti sapranno accogliere, promuovere, proteggere e integrare, stabilendo misure pratiche nei limiti consentiti dal bene comune rettamente inteso, ha ribadito Papa Francesco, che ha anche sottolineato come si debba con spirito di misericordia abbracciare tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame. Bergoglio ha poi voluto ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati. Il pontefice nel suo messaggio ribadisce che le migrazioni globali continueranno a segnare il nostro futuro, che alcuni considerano una minaccia, e quanti fomentano la paura nei confronti dei migranti, magari a fini politici, scrive il Papa, anziché costruire la pace seminano violenza, discriminazione razziale, xenofobia. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia di poco fa che arriva dall'Egitto, dove un attentato contro una moschea nel nord del Sinai ha provocato una cinquantina, almeno 50 morti. Lo rendono noto fonti della sicurezza e mediche. L'attacco è stato condotto piazzando una bomba all'interno del luogo di culto e sparando sui fedeli che fuggivano dopo l'esplosione. Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha definito il super leader iraniano, il leader iraniano Ali Khamenei, come il nuovo Hitler del Medio Oriente. L'analisi di Ugo Tramballi. Tom Friedman del New York Times, che lo ha intervistato, sostiene che Mohammed bin Salman stia realizzando una primavera araba nel Regno Saudita. L'opinione è ardita, ma non del tutto sbagliata. Con modi piuttosto bruschi, il giovane principe ereditario sta effettivamente riformando e moralizzando il più retrogrado fra i paesi della regione e del mondo. Ma c'è un altro aspetto di MBS, l'acronimo di Mohammed bin Salman: le sue mire in Medio Oriente. Diversamente dalle questioni domestiche, in questo campo MBS è più un distruttore che un riformatore. Nell'intervista al Times, il principe definisce Donald Trump l'uomo giusto al momento giusto. A parte Vladimir Putin, nessun altro leader mondiale la pensa così. E ancor peggio, MBS crede che l'Ayatollah Khamenei, la guida suprema dell'Iran, nemico giurato dei sauditi in una pericolosa contesa religiosa e geopolitica, sia il nuovo Hitler del Medio Oriente. L'esuberanza e l'impulsività, che forse sono le armi necessarie per riformare un paese bigotto come l'Arabia Saudita, in politica estera sono gli strumenti opposti di ciò che serve per evitare conflitti devastanti, la diplomazia. Riguardo a questo, ora gli responsabili sono due, Trump e MBS. E questo il quadro appunto da Ugo Tramballi. Parliamo adesso della giornata contro la violenza sulle donne che si celebra domani a Roma. Il corteo del movimento Non Una di Meno, a Montecitorio 1300 donne invitate dalla Presidente Boldrini. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio ha confermato dati purtroppo in aumento. Anna Rita D'Ambrosio ha chiesto alla Presidente, la senatrice democratica Francesca Puglisi, cosa è emerso dai lavori in questi mesi. la cosa che va fatta, questo sta emergendo nella commissione d'inchiesta sul femminicidio e su questo sta lavorando il piano nazionale contro la violenza della sottosegretaria Boschi, è quello di offrire innanzitutto alle donne dei percorsi di autonomia, autonomia abitativa, autonomia lavorativa, perché la violenza domestica spesso è anche violenza economica. Serve un grande lavoro di formazione di tutti gli attori della rete di prevenzione e protezione, saper accogliere le vittime di violenza e a farsi carico di un percorso che le accompagni nuovamente all'autonomia e alla libertà. A gennaio sono iniziati i lavori, si concluderanno a gennaio prossimo con un bagaglio di informazioni davvero, davvero enorme. Un patrimonio di dati che resterà poi patrimonio del Paese e anche del futuro Parlamento e del futuro Governo. Abbiamo parlato del Black Friday per lo sciopero di Amazon, però ne parliamo anche dall'altro punto di vista, quello dello shopping, anche se molto ne ha discusso anche Gianluca Nicoletti poco fa in Melog, è una guerra all'ultimo prezzo che dalle piattaforme online, le prime ad esportare una strategia globale, si è spostata anche nei negozi fisici. Non parliamo solo di moda e tecnologia, ma anche supermercati, viaggi, hotel, fornitori di luce e gas, perfino le agenzie immobiliari stanno offrendo degli sconti nel giorno del Black Friday sulle abitazioni. Quanto è il valore reale dei prodotti e quanto invece l'aspetto psicologico? Maria Luisa Pezzali ne ha parlato con Vincenzo Russo, professore associato di psicologia dei consumi e neuromarketing allo IULM di Milano. Il valore delle merci non è legato soltanto all'aspetto oggettivo, ma a quello che io posso pensare di acquistare una volta che ho preso quel particolare prodotto. Quindi è chiaro che grazie al gioco dell'emozione è possibile fare percepire prodotti che costano poco ma che in realtà hanno un grande valore soggettivo, viceversa. È una vecchia storia, la conosciamo già da tantissimi anni. È chiaro che ci possono essere delle strategie mirate per far percepire che quella è l'unica occasione, l'ultima occasione. Poi se ci mettiamo l'elemento che ha una fortissima valenza emozionale, cioè il tempo limitato per l'acquisto, il numero limitato di prodotti che possono essere acquistati in sconto e soprattutto la consapevolezza che ci sono tanti altri che possono accedere a quel prodotto, beh, il gioco è fatto. C'è un rischio per il consumatore che questa corsa non finisca mai e poi di fatto l'acquisto non avviene? Beh, questo può essere un rischio, nel senso che è una guerra che diventa una guerra di persuasione, non è una guerra relativa al prodotto e al costo di quel prodotto, è una guerra di persuasione che deve fare in modo che quella particolare offerta venga fuori tra tante altre, perché se rimane al pari delle altre, allora si rischia di avere il paradosso della troppa scelta. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro Giro d'Italia. Parleremo e parecchio di criminalità organizzata, perché c'è stato l'agguato di ieri a Ostia e ne parleremo con Giuliana Di Pillo, che è la neo presidente del municipio di Ostia. Ci occuperemo, e lo dico all'ascoltatore che ci ha scritto poco fa, anche sì, di quello che è successo in provincia nei pressi di Reggio Emilia, dove un uomo di 31 anni è stato ucciso. Quest'uomo era originario di Cutro e siamo di origini calabresi. Là c'è una forte penetrazione della criminalità organizzata calabrese, ovviamente su questo omicidio andrà capito qualcosa di più, però è sicuramente un elemento di riflessione. E poi torna il nostro tormentone Igor il Russo alias Norbert Fehr, perché arrivano notizie che innanzitutto ci sono 5 indagati per aver coperto la sua fuga. E poi la storia che arriva ieri da Rimini, dove un maresciallo dei carabinieri fuori servizio era su un treno e ha detto: ho visto Igor, ha avvertito la centrale, la stazione di Rimini è stata circondata e ovviamente Igor il Russo non c'era. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e sempre la nostra diretta sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla nostra pagina Facebook, e se volete potete anche commentare là, oltre che ovviamente vederci, ammesso che questo vi interessi. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'agguato a Ostia e ci ritorneremo tra un attimo, dell'indagine sul sindaco di Mantova, dello sciopero ad Amazon e delle parole del Papa sui migranti, oltre che del principe saudita che si scaglia contro la guida suprema iraniana e dice come Adolf Hitler. Adesso iniziamo il nostro giro d'Italia, iniziamo come si diceva proprio da Ostia. Ostia, dove c'è stato questo agguato ieri in via delle Canarie. Un uomo con un casco in testa è entrato in un locale, ha sparato ferendo il padre della proprietaria di una pizzeria, un uomo di 50 anni e un pizzaiolo di 41 che per fortuna sono fuori pericolo di vita, sono stati colpiti alle gambe, sostanzialmente gambizzati. Giuliana Di Pillo, presidente, neo presidente del decimo municipio, benvenuta ai nostri microfoni. Grazie, grazie. Come giudica quello che è successo ieri sera? Un agguato di mafia, un agguato di criminalità organizzata? Guardi, sicuramente è un gesto veramente grave e che va solamente condannato, e le forze dell'ordine stanno facendo le giuste indagini, e quindi noi speriamo che chi si è reso responsabile di questo gesto venga assicurato alla giustizia al più presto. Di Pillo, aspetti un attimo, che non abbiamo, ci siamo persi un pezzo perché la stiamo perdendo. Non so dove si trova, se ha un posto nel quale. Sto in macchina e sto uscendo adesso da una galleria. Ah, ok, perfetto. In questo momento quindi adesso, meglio. Adesso dovremo sentirla bene. Ci stava dicendo? Sì. Prego. Sì, stavo dicendo che è un gesto inqualificabile, di grave. La polizia sta giustamente indagando sulla situazione e speriamo che chi si è reso responsabile di questo gesto venga assicurato alla giustizia. E questo, questo lo speriamo tutti quanti. Per così dire, le modalità fanno pensare al fatto che si possa trattare di qualcosa che ha a che fare con la criminalità organizzata, Di Pillo, adesso senza... No. Io ripeto, la polizia sta indagando, insomma. E quello che dico è che sicuramente questo territorio ha bisogno di ritornare alla normalità, ha bisogno che i cittadini si devono sentire più sicuri. Quindi è chiaro, un presidente di municipio da solo può fare poco, qua bisogna lavorare veramente in stretto contatto e in sinergia con le forze dell'ordine e, se necessario, anche in maniera interistituzionale, in maniera circolare, tutti insieme. Perché, ripeto, questo è un territorio dove la maggior parte delle persone sono persone oneste che vogliono vivere in maniera sicura il proprio territorio. E quindi noi dobbiamo lavorare assolutamente per questo. Cosa chiedete, Di Pillo? Più uomini amminiti? Che cosa volete? Beh, sicuramente sì, insomma, un incremento delle forze dell'ordine sarebbe auspicabile, perché è chiaro, insomma, le cose che succedono sono gravi e bisogna combatterle. Non lo giudica come un, mi consenta l'espressione, ovviamente è ironica, una sorta di benvenuto alla sua elezione, questa sparatoria? Ma guardi, qualunque cosa sia, noi tanto abbiamo l'obiettivo di lavorare bene in questo territorio, e quindi qualunque cosa sia, noi lavoreremo sempre, come abbiamo detto, per la nostra strada, con un obiettivo sicuro e comunque lasciando l'illegalità fuori dalle istituzioni, e nessuno si dovrà avvicinare all'istituzione, solo le persone oneste, ovviamente, i cittadini onesti. E noi non scenderemo a patti con nessuno, Grazie a Giuliana Di Pillo, presidente del decimo municipio. Qualcuno ci dice: l'ospite in macchina che non si sente più perché in galleria ci mancava, complimenti. Ragazzi, ma mica è colpa mia, se è al telefono con noi e passa dentro una galleria, io che cosa ne posso sapere di che cosa fa la presidente del decimo municipio mentre è al telefono con Radio 24. Giovanni Tizian, giornalista dell'Espresso, ciao Giovanni, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Con te per continuare a parlare di criminalità organizzata, anche se ovviamente abbiamo ancora pochi dettagli, anche in questo caso, così come nel caso di Ostia, della vicenda che è avvenuta a Villanova di Reggiolo, nel Reggiano, dove un uomo di 31 anni è stato ucciso a colpi di pistola sulla porta di casa. Si tratta di un uomo di 31 anni originario di Cutro, nel Crotonese. Ora, la cosa ci ha fatto naturalmente drizzare le antenne, perché tra l'altro a Reggiolo negli ultimi giorni ci sono stati una serie di episodi, incendi ad auto e cose di questo genere. Giovanni Tizian, lo ricordo ai nostri ascoltatori, è un giornalista dell'Espresso ed è stato minacciato per le sue inchieste sulla penetrazione dell''ndrangheta proprio in Emilia Romagna. Allora Giovanni, come giudichi questo episodio, per quanto ne sappiamo, perché poi i magistrati indagheranno, a volte vediamo anche la criminalità organizzata dove non c'è, insomma, magari sono vendette personali, però qualche antenna ce l'ha fatta drizzare, come dicevo, no? Sì, assolutamente, il fatto è decisamente inquietante, a prescindere da quale sia, diciamo, poi il momento, perché è ancora troppo presto per decifrare bene diciamo, il fatto nel suo complesso. La cosa inquietante, ripeto, è il susseguirsi di atti che ci sono stati in zona dove è avvenuto l'omicidio, di incendi e appunto stanotte l'omicidio di Francesco Cipro. A questo si aggiunga un elemento in più, che nell'ultimo anno, e questo è un piccolo record dell'Emilia Romagna, ha avuto questo territorio un'escalation di pentimenti all'interno dell''ndrangheta emiliana. Ne contiamo ben 5 in un anno. Che è forte come segnale. Ma in proporzione rispetto a tutta l''ndrangheta nazionale, diciamo, è davvero un record. È un record che sta ovviamente mettendo in difficoltà evidentemente delle dinamiche sul territorio. A prescindere, ripeto, da questo omicidio. Sì, certo, diciamo. Certo, naturalmente siamo andati. E la cosa, diciamo, questi pentiti che cosa stanno facendo? Stanno ricostruendo gli anni 90, gli anni 80, gli anni 90 fino a oggi, e di oggi dicono che dopo gli arresti della grande operazione, della grande retata Emilia, oltre 200 arresti, la più grande operazione antimafia fatta in Italia, il processo è in corso di svolgimento a Reggio Emilia, il più grande processo di mafia al momento in corso in Italia, raccontano di alcune frizioni all'interno dell''ndrangheta emiliana. Quindi è ovvio che se c'è un incendio, se c'è un omicidio, leggendo quelle dichiarazioni di questi pentiti, ecco, diventa tutto più preoccupante. Poi magari domani scopriremo che era tutta un'altra vicenda, però il fatto è che da Roma in su si spara. E questo, diciamo, è il vero fatto. È come se stesse salendo la tensione. Quello che ci stai dicendo è che sta salendo la tensione all'interno dell''ndrangheta emiliana. Ma sì, all'interno dell''ndrangheta emiliana sicuramente, perché ci sono stati dei fatti che sono già stati, come dire, sono già stati provati da alcune recenti operazioni, quindi il post-operazione Emilia, in cui addirittura all'interno del carcere dove erano detenuti alcuni 'ndranghetisti sono stati fatti pestaggi, ci sono stati dei conflitti interni molto forti, no? E questo vuol dire che anche all'esterno evidentemente ci sono alcune fazioni che erano tranquille quando c'era il grande capo, grande Aracri, e ora evidentemente scalpitano per ottenere probabilmente successi personali e salire di gradino nella loro carriera criminale. Questo è evidente, questo è già provato da alcuni provvedimenti giudiziari. E, detto questo, queste piccole evidenze segnalano anche un altro problema, che l''ndrangheta e le mafie, diciamo, fuori dalle regioni tradizionali, evidentemente hanno iniziato anche a usare la violenza in maniera più decisa. Più decisa. Io ti ringrazio, grazie a Giovanni Tizian per averci aiutato a dare questa lettura. Lo ricordiamo, cronista dell'Espresso, minacciato per le sue inchieste, autore di una serie di libri esattamente su questo tema. Qual è l'ultimo, Giovanni, tra l'altro? Ah no, è giù, è caduto. E comunque li cercate e li trovate. Grazie a Giovanni Tizian. Noi adesso andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi veniamo, ho visto tra l'altro alla vicenda di Igor, ho visto tra l'altro che ci sono addirittura degli affezionati, prima ancora che vi dicessimo che avremmo toccato l'argomento c'è qualcuno che dice: Igor il Russo, avete notizie? Perché oggi ne abbiamo sentito parlare. Sì sì, non vi preoccupate, ci arriviamo, ci sono degli affezionati della vicenda di Igor il Russo, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: l'agguato Ostia, gambizzate due persone, intervenga Minniti, chiede la neopresidente del municipio. Indagato il sindaco di Mantova, l'accusa a favori sessuali in cambio di fondi per un'associazione. Sciopero ad Amazon di metà dei lavoratori secondo i sindacati, di un decimo secondo l'azienda, si fermano anche 6 stabilimenti in Germania. Il principe saudita si scaglia contro la guida suprema iraniana, è come Adolf Hitler. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo. Spezia di Genovese in Sicilia, non ne parli? Abbiamo aperto ieri Effetto Giorno parlando esattamente di questa vicenda, però ragazzi, se non ascoltate tutti i giorni, che cosa posso fare io? Ascoltate tutti i giorni e vedrete che le notizie le trattiamo tutti. E dico all'ascoltatore, a proposito della telefonata che abbiamo avuto prima con la Di Pillo, la presidente del decimo municipio, non è che possiamo chiamare tutte persone che sono sul telefono fisso, abbiamo c'è gente che il telefono fisso nemmeno ce l'ha, e a parte questo, insomma, se stiamo sulla notizia, sulle persone che, con le quali vogliamo interloquire, se queste persone ci dicono chiamate al cellulare, le chiamiamo al cellulare, poi se passano sotto una galleria sarà pure colpa loro. Dunque, Igor il Russo, Norbert Fehr, questo è. A questo torniamo, perché oggi il quotidiano Repubblica dedica una serie di 4-5 pagine dove dà anche una notizia, tra le altre cose, nel fare un mega racconto sulla vicenda di questo super latitante scomparso dopo aver commesso almeno 2 omicidi, sparito nelle campagne del Ferrarese, per il quale sono state dispiegate centinaia di uomini nella ricerca di quest'uomo che poi è fuggito. E la notizia è che ci sono 5 indagati, sembra ci siano 5 indagati per favoreggiamento, per averlo aiutato a fuggire. Nel frattempo da Rimini arriva notizia che ieri la stazione è stata blindata più o meno intorno a quest'ora. Perché? Perché un maresciallo dei carabinieri fuori servizio ha chiamato, ha detto: c'è Igor sul treno, e la stazione è stata circondata, ma ovviamente Igor non c'era. Giorgio Bacchelli, avvocato della famiglia di Davide Fabbri, il barista ucciso da Igor il Russo, ossia Norbert Fehr. Buongiorno e bentornato. Buongiorno. Ai nostri microfoni. Buongiorno, grazie. Quindi buongiorno. L'inchiesta quantomeno va avanti, e qualche segnale che qualcosa si muove sembra che ci sia, Bacchelli, no? Allora, le posso dire che ho parlato proprio qualche giorno fa con il sostituto procuratore dottor Forte della Repubblica di Bologna, il quale mi ha detto che le indagini stanno proseguendo regolarmente e che ce ne sono tante in atto, registrazioni, intercettazioni telefoniche, eccetera. Mi ha detto che avrebbe chiesto, infatti l'ha fatto e mi è stato anche notificato, la proroga, l'autorizzazione alla proroga delle indagini preliminari, che non è già scaduto come termine, 6 mesi, chiede altri 6 mesi perché le indagini proseguono a tutto campo. E appunto perché ci sono le intercettazioni, soprattutto in atto, perché mi diceva questo. Noi facciamo, io personalmente ho girato varie segnalazioni di presenza di Igor, di indicazioni relativamente a persone che possono averlo visto, sentito, aiutato, eccetera. Ne ho fatto una anche 8-10 giorni fa, che è passata alla Procura della Repubblica. Potrebbe anche darsi che quella informazione data da Repubblica oggi tragga spunto da qualche iniziativa, da qualche indagine che è stata disposta anche in relazione a questo fatto, perché nell'ultima comunicazione che ho fatto alla Procura della Repubblica per la parte lesa, per la signora vedova Fabbri, dicevo appunto che dei personaggi conosciuti probabilmente da Igor quando era in carcere a Ferrara, dove è stato oltre 4 anni, personaggi un po', diciamo, della malavita o fiancheggiatori della malavita possono averlo aiutato. Sì. Io resto dell'idea che non siano fatti recenti eventualmente questi aiuti che può avere ricevuto. La mia idea personale è che non siano situazioni cioè, recenti, risalgono, ma che siano pregressi. Risalgono al momento della fuga, risalgono al momento della fuga in sostanza. Primi due o tre mesi di latitanza, due o tre mesi, forse quattro mesi di latitanza. Noi sappiamo che fino a maggio era nella zona del triangolo Bologna, Ferrara, Ravenna. Poi dopo abbiamo perso le tracce, almeno così mi è stato detto, da maggio in poi, dal fine maggio in poi, non si sa più dove sia. E ritengo che sia stato aiutato proprio in quel periodo, parliamo di maggio, giugno, luglio. Quindi queste notizie che ha raccolto Repubblica probabilmente sono collegate con informazioni non recentissime. Questa quindi, è la mia ipotesi. Quindi probabilmente questi aiuti sarebbero arrivati nel momento proprio nel quale stava per fuggire, stava per lasciare la zona. È presumibile che sia qualcosa di questo genere. C'è ancora la taglia, avvocato? Certamente, perché l'abbiamo prorogata, ci metto sempre anch'io, anche perché sono il consulente di questa operazione. La taglia è stata fatta per tre mesi di durata ed è stata prorogata, mi pare che scada intorno al 20 gennaio, quindi sempre 50.000 euro a disposizione di chi offre notizie certe e sicure per trovare Igor. Sì, certo, naturalmente. Questa taglia, tra l'altro, che è stata ovviamente pubblicizzata, ha favorito l'ottenimento di informazioni che sono pervenute anche direttamente a me, il mio email, eccetera, da parte di privati cittadini, vari soggetti che hanno avuto l'impressione di incontrarlo, di sapere dove era. Sì, ecco. Sì, tra cui presumibilmente questa vicenda di Rimini, anche se in questo caso era un maresciallo dei carabinieri, può darci. Non sapevo nulla. No, la prendiamo noi dai giornali locali, appunto. Sì, sì. Allora, grazie all'avvocato della famiglia di Davide Fabbri, Giorgio Bacchelli, per essere stato con noi. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.